Mario, insomma, ci fa una tirata d'orecchie dicendo: non siete stati molto chiari su questi aspetti. Mario, buongiorno. Buongiorno, ecco appunto, pensavo comunque che voi l'avreste detto, volevo sapere qual è il tasso di interesse. Certo, giustamente. Imposto, perché l'hanno detto 5-9% quelli della macchina, loro ancora no, e sarebbe interessante. Esatto, esatto. Grazie molte. Allora, aspetto fiscale di chi presta soprattutto, e quindi guadagna qualcosa rispetto a questa... Siccome abbiamo due clienti, uno che presta e uno che richiede, abbiamo dovuto inventarci qualcosa e l'abbiamo chiamato tasso d'equilibrio. Il tasso d'equilibrio è il punto in cui fanno un affare tutte e due, anzi tutti e tre, perché un'altra delle caratteristiche differenti rispetto agli altri operatori è che noi partecipiamo a ogni finanziamento con un minimo e con un massimo, ma partecipiamo a ogni finanziamento, e questo aiuta anche a gestire gli eventuali casi problematici a cui accennavi prima te. Ma quindi, per esempio, una persona che decide di prestarvi in qualità di prestatore 5.000 euro a gennaio, alla fine dell'anno, teoricamente, sulla base chiaramente poi della comunità che si forma, maturerà anche il proprio reddito. Certamente. Allora, la persona nella misura in cui avrà investito renderà un tasso che sarà il 7% meno la nostra commissione, che è lo 0,8 però sul totale della somma, quindi sui 3 anni. Quindi man mano che incassa paga il prestatore. Quindi 7% meno la nostra commissione, che comunque è piccolina, meno le tasse, che ovviamente è un dovere pagare. Certo, infatti. E sono in funzione... Ci mancherebbe pure che noi pagassi, sennò subito fuori dalla comunità. Certamente. Diciamo che la tipicità nostra rispetto agli altri strumenti finanziari è che a oggi noi non siamo sotto l'imposta, quindi le tasse sul prestito da persone sono inglobate nella tua dichiarazione, che portano comunque un vantaggio per chi guadagna meno rispetto a chi ha grandi importi. E comunque, insomma, c'è un tema di... Stiamo quasi chiudendo, sì. No, stavo guardando intanto tasso medio sul prestito, per accontentare anche Mario da Milano. Il tasso tradotto in TAEG fra prestiti più lunghi di 3 anni non li fate, più per di ora 36 sono mesi. 36 mesi. Tra l'altro, questo è anche una differenza rispetto agli altri modelli, perché in questo caso, lo dicevamo, il tasso è fissato al 7% e di qua non si muove. Negli altri sistemi, invece, il tasso di interesse variava in funzione del profilo di rischio e delle caratteristiche del finanziamento, quindi dal 5,5 al 16% per intenderci.